Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, partiamo dalla parte finanziaria, nel senso che non l'hanno preso bene gli investitori né il piano Fiat, meno 11% il tonfo adesso del titolo del lingotto in borsa a 7,53 euro, né i conti di Finmeccanica. Meno 7,42%. Lo dico perché oggi in realtà la giornata sugli altri mercati è completamente diversa, sono quasi tutti positivi, dico quasi perché Londra meno 0,13, ma l'America guadagna lo 0,20, Francoforte lo 0,50, Parigi lo 0,40%. Milano invece perde l'1%, il FTSE MIB è 21.300 punti, per via appunto di Fiat meno 11, Finmeccanica meno 7,60, Monte dei Paschi meno 6%, Banco Popolare meno 5,30, IUX meno 4,80, POP Milano meno 4,50, Popolare Emilia Romagna meno 3,80, come Azimut il 3,70 lo perde l'Intesa, ma anche Mediaset il 3,5, UbiBanca. E poi A2A perde il 2,40, Mediobanca il 2,20, Atlantia il 2,1%. Mi fermo qui, ma già l'elenco fa capire come al di là dei casi Fiat e Finmeccanica ci siano anche appunto cali generalizzati sulle popolari, sul Monte dei Paschi, su Mediaset e anche su A2A. Si salva Tenaris più 1,70%. E Enel ed Eni più 1,20%, entrambe CNH Industrial più 1,16%, Telecom più 1%, Enel Green Power più 1%. Allora, che cosa è successo su Fiat? Ne parleremo. Ieri, come battuta, avevamo chiesto ad Andrea Malani in collegamento con noi da Detroit se il libro che faceva riferimento a Marchionne non fosse il libro dei sogni, nel senso che le percentuali, le stime, diciamo, dell'obiettivo Fiat ci sembravano molto molto ambiziose. Devo dire che questo è il giudizio anche di molti analisti, che ritengono eccessivamente ambiziose evidentemente le stime diffuse ieri sulle varie produzioni per i vari marchi Fiat, Jeep e Chrysler. Ancora parleremo nel corso della puntata però anche del congresso della CGIL, perché questa mattina è arrivato il ministro del lavoro Poletti, ma sta iniziando a parlare, ha già parlato Maurizio Landini, che è il segretario generale della FIOM, in qualche modo antagonista della Camusso dentro la CGIL. Parleremo però, dicevo, anche di Fiat e del DL Lavoro, perché dovrebbe arrivare nel corso del programma la fiducia sul DL Lavoro. 349-238-6666 per i vostri sms. E poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo come sempre dalle notizie internazionali, dall'America. La numero uno della Federal Reserve, e quindi Janet Yellen, dice: continueremo con la nostra politica monetaria accomodante, l'economia cresce più velocemente, ma il mercato del lavoro resta insoddisfacente. E poi invece il numero uno della Francia di Alstom, Patrick Cron, commentando le trattative in corso con General Electric e con Siemens, va un po' contro quello che è Hollande, l'interventista Hollande. Hollande non ha un'azione di Alstom, ma continua a parlare di Alstom: il prezzo è giusto, preferiremmo che andasse tedeschi, il prezzo deve essere più alto. Allora Cron gli ha ricordato, ha detto: ritengo legittimo che lo Stato francese si esprima, perché è un'azienda, un gruppo importante per la Francia, però attenzione, conta la realtà industriale, non la nazionalità degli attori, dovrebbero capirlo anche i francesi questo. E poi ha detto: ci interessa anche l'offerta della Siemens, la studieremo. Nel frattempo il gruppo Astoma ha chiuso con un calo del 28% dell'utile il 2013 a 556 milioni di euro. Il debito dei vari paesi europei. Allora, di nuovo buone notizie, ne abbiamo parlato già ieri con il minimo storico dei BTP a 10 anni, di nuovo buone notizie per il nostro debito, ci costa sempre meno a trovare finanziatori per il nostro debito. Il tasso oggi dei BTP a 10 anni ha toccato nuovi minimi, il 2,98%, il 2,98% rendono. E lo spread con il Bund è sceso a 153 punti. Ancora, per quello che riguarda però il debito degli stati, faccio notare che oggi è tecnicamente andata scoperta l'asta tedesca dei Bund a 5 anni. Cosa vuol dire scoperta? Vuol dire che non hanno trovato abbastanza compratori per il loro debito. Dovevano rifinanziare 5 miliardi di euro, sono riusciti a finanziarne 4 miliardi e 200 milioni. Il rendimento è calato ulteriormente, è sceso allo 0,57% contro lo 0,66%. La domanda, come vedete, era insufficiente rispetto all'offerta, tant'è che Berlino ha collocato solo 4 miliardi. Il motivo non è che abbiano paura di comprare debito tedesco, il problema è che, visto che si è tranquillizzata la situazione, perlomeno per ora, negli altri paesi, comprare Bund come bene rifugio non è più attraente e lo 0,60% di rendimento lordo obiettivamente diventa sempre meno invogliante. E infatti, questo lo vediamo in senso positivo, con tutto un flusso di acquisti che invece arriva verso il debito italiano. Ancora, vedo sul Diario Lavoro, sì, ne parleremo più avanti, anzi forse possiamo anche fare un aggiornamento perché il Diario Lavoro è passato al Senato e adesso raggiungiamo il nostro Vincenzo Miglietta che ha seguito tutto il pomeriggio i lavori. Sì, si sono incatenati i senatori dei 5 Stelle, poi si sono scatenati, nel senso che hanno levato le catene. Calderoli, che era il presidente del Senato in quel momento, ha chiesto di recuperare i Tronchesini, rischiati avvisati, rischiate anche l'arresto. Ma al di là di questo, il governo ha posto la fiducia al Senato sul disegno di legge sul lavoro, anche perché pendevano circa 700 emendamenti, molti dei quali con intenti ostruzionistici. Adesso il decreto deve passare alla Camera e deve essere convertito in legge entro il prossimo 19 maggio. Siamo in collegamento dal Senato con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buonasera. Buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, nessuno ha stenuto, se ho ben visto, però ridacci anche le proporzioni dei rapporti di forza, maggioranza e opposizione. E invece non ce li può dare, Vincenzo Miglietta, che richiameremo nel momento in cui doveva parlare con tutta la linea. Riprendiamo allora le nostre notizie in breve, poi torniamo anche al Senato. L'Italia, e restiamo in Italia, è l'unico, assieme ad altri quattro paesi al mondo, che può vantare un avanzo commerciale, quindi la differenza tra quanto esportiamo e quanto importiamo, superiore ai 100 miliardi di dollari. Lo ha ricordato oggi Marco Fortis, vicepresidente della Fondazione Edison e nonché economista, spesso nostro ospite. Gli altri paesi che hanno un avanzo commerciale di oltre 100 miliardi di dollari sono la Cina, la Germania, il Giappone e la Corea del Sud, mentre la Francia è in negativo per 34 miliardi, la Gran Bretagna per 100 miliardi, gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale di 610 miliardi, a dimostrazione che quando le nostre imprese sono presenti sui mercati esteri lavorano bene, che molte si sono lì spostate e che c'è certo un euro non a 1,39 ma a 1,1 a 1,1 o a 1 aiuterebbe non poco il nostro export, però riescono a esportare nonostante la forza dell'euro, non la l'esistenza dell'euro, ma un rapporto di cambio col dollaro obiettivamente svantaggioso. E adesso vediamo se regge il Senato, inteso quanto a collegamento. La fiducia infatti ha retto. Vincenzo? Sì, torno sui rapporti di forza di cui mi chiedevi, Sebastiano. Dicevamo 158 sì, 122 no alla fiducia, quindi un esame superato abbastanza agevolmente dal governo Renzi, dalla maggioranza che appoggia l'attuale esecutivo, e maggioranza, ricordiamo, che ha modificato al Senato il testo uscito da Palazzo Chigi con tante polemiche, soprattutto su insistenza del nuovo centrodestra, che ha fatto cambiare gli aspetti forse più importanti del decreto, quella sui contratti a termine e poi sulle modalità di apprendistato. Il testo però deve ancora fare l'ultimo passaggio alla Camera dei Deputati, dove arriverà nelle prossime ore, e il governo comunque stringe per tempi rapidi. Alla Camera non dovrebbero esserci sorprese, visti i rapporti di forza sui quali può contare il governo Renzi. Allora, facevi riferimento, Vincenzo, a una modifica voluta dal nuovo centrodestra a cui il PD poi non si è opposto, che riguarda proprio la nuova versione di cosa capita alle imprese che superano il 20% del totale di contratti a termine e non saranno più obbligate ad assumere, diciamo, l'eccedenza, ma avranno sanzioni monetarie in quel caso. Questa è una prima modifica, escluso dal tetto del 20%, però tutto il mondo delle imprese che hanno meno di 5 addetti e gli istituti di ricerca. Restano a 5 in 3 anni e non più 8 come nella versione iniziale le possibili proroghe per i contratti a termine. Grazie Vincenzo Migliete, collegamento con noi dal Senato. Riprendiamo invece le altre notizie in breve. Allora, il ministro Delrio ha detto che non è stata, anzi sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio, anche se vale come ministro, non è stata per nulla accantonata l'ipotesi di allegare il canone RAI alla bolletta elettrica. La rimodulazione del canone, ha aggiunto Delrio, partirà solo quando sarà recuperata l'evasione fiscale. L'evasione del canone, chiaramente. Intanto la Commissione Difesa della Camera ha approvato la relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva sugli armamenti, il tema sono i famosi F-35, è stata approvata la relazione del PD che chiede tra l'altro una moratoria sugli F-35 e un dimezzamento della spesa. La vicenda all'Italia, non si segnalano particolari novità se non il fatto che il ministro degli esteri emiratino Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dopo un incontro alla Farnesina con il ministro degli esteri Federica Mogherini, ha detto: come governo cercheremo, come governo di Abu Dhabi, cercheremo di creare il clima più favorevole possibile per l'accordo tra Etihad e Alitalia. Lo stesso ministro Mogherini ha detto: il governo italiano è impegnato per accompagnare un eventuale accordo tra l'Italia e Etihad. E quanto al tema degli esuberi, perché ne ha chiesti più, diciamo, del piano originario Etihad, il ministro Lupi ha detto: attenzione, se l'azienda dovesse chiudere andrebbero tutti a casa, non si ridimensiona, quindi per favorire l'occupazione dobbiamo tornare ad avere un piano di sviluppo, questo accordo ha questa logica. Dopodiché il numero uno di Alitalia, Gabriele Del Torchio, ha detto che continueranno a lavorare e per rifare il punto, ma soprattutto trovare un punto di caduta, un punto di compromesso con le richieste di Etihad, e poi i vertici di Alitalia reincontreranno il ministro Lupi. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Arriviamo adesso alla Fiat, però prima purtroppo devo raccontare altri simpatici casi che spuntano sempre come funghi, è vero che per alcuni versi è anche periodo di funghi, ma insomma casi di cattivo utilizzo, sprechi, ruberie da parte dei soldi dei privati cittadini in quella che tutto avremmo voluto che diventasse, tranne che una rubrica quasi fissa, un appuntamento quasi fisso di questo programma. Vabbè, avete messo la maiella, un tango della maiella, va bene. Allora, è dispiaciutissima Claudia Lombardo perché faceva la consigliera regionale in Sardegna, è andata in pensione a 41 anni, questo per il cavolo di motivo che spiegavamo anche ieri, che le regioni e il statuto autonomo poi adottano i regolamenti come vogliono. Allora, era eletta giovanissima, non aveva mai lavorato, viene eletta nel 94, molto bella, ricci, biondi, chi se ne frega, il tocco magico di cui parlava Berlusconi, va bene. Papà Salvatore era consigliere socialista, conflitto in Forza Italia, ma questo è irrilevante e le aveva lasciato praticamente in eredità il seggio. Ma il vero problema di Claudia Lombardo non è questo, è che è stata confermata alle elezioni del 99 a quelle del 2004 come coordinatrice sarda del partito e viene eletta presidente dell'Assemblea regionale. Allora, che cosa succede? Ha compiuto 41 anni a dicembre e porta a casa una pensione già a 41 anni di 5.100 euro netti al mese. È riuscita a stracciare perfino un record che pareva imbattibile, quello di Giuseppe Gambale, che era entrato ragazzino alla Camera e nel 2006, quando poi diventò assessore al Comune di Napoli, e prese una pensione di 8.455 euro lordi al mese dopo alla sola età di 42 anni. Certo, ci sono altri ex deputati o ex consiglieri che prendono il vitalizio da giovani o giovanissimi. A 49 anni prese la pensione Alfonso Pecoraro Scanio, a 48 Rino Piscitello, a 46 anni Antonio Martuscello. Interessante la risposta della Lombardo, dice: la legge non l'abbiamo fatta noi, ho capito, ma i soldi li puoi sempre ridare e ammettere che è uno schifo, con gli esodati, l'innalzamento dell'età pensionabile e quant'altro, che a 41 anni, avendo praticamente lavorato, diciamo così, anche se non è un lavoro fare il consigliere regionale, è giusto che ci sia un'indennità, ma uno si offre, crede nella cosa, se no va a fare un altro lavoro. Dicevo, è uno scandalo che tu prenda 5.100 euro netti al mese. Poi però ci spostiamo dalla Sardegna alla Sicilia e dal PDL o Forza Italia, come si chiama adesso, al PD. Perché? Perché il PD siciliano ha 500.000 di euro di crediti nei confronti dei suoi parlamentari nazionali e regionali. Perché? Per regolamento interno sono obbligati a versare il 15% del loro stipendio. Una somma che deve servire a pagare poi la struttura del PD siciliano, che invece non riesce a pagare lo stipendio ai 13 dipendenti, di cui due sono in aspettativa. Perché? Perché molti di questi, non dei parlamentari del PD, non versano i soldi al PD siciliano, ma anche i consiglieri regionali. E quindi il tesoriere Salvatore Alessandro avvia la procedura di licenziamento collettivo nei confronti dei 13 dipendenti. Chi non sta pagando? Non stanno pagando assessori regionali dell'attuale e della passata giunta: Nelly Scilabra, Maria Rita Sgarlata, Luca Bianchi e Nino Bartolotta. Il caso più divertente, se non ci fosse da piangere, lo dico, è un collega, adesso fa altro, fa il senatore, Corradino Mineo, no, era del TG3 una volta. Ma insomma, Corradino Mineo, invitato a versare la sua quota, ma è un regolamento interno del PD, uno si iscrive al PD, si candida per il PD, vince nel collegio del PD, seguirà anche i regolamenti interni. Ha scritto anche una lettera, ha detto: io nella mia precedente attività di giornalista guadagnavo più che da parlamentare, quindi non devi sottostare al regolamento. Cioè, non è che Mineo non te l'ha chiesto nessuno di fare parlamentare, abbi per esempio potrei continuare a fare giornalista. Anche lì un'immagine che ci sia una vocazione, mica lo fai per il guadagno. Vabbè. Invece è interessante quanto è successo in Puglia, perché il Consiglio regionale da ieri non ha più 70 seggi, ne ha 69 e andrà avanti così fino al 2015, perché l'Assemblea ha preso atto dell'uscita di scena del democratico Fabiano Amati. Perché è uscito di scena? Non perché è tornato come cincinnato alla vita privata, perché l'hanno condannato a 20 mesi per abuso d'ufficio e falso. Siccome per la legge Severino inciampa nella sospensione della carica, non potrà essere sostituito, dovrà fare 18 mesi, mancherà un consigliere regionale. Voi dite, vabbè, chi se ne frega. No, cosa interessante è che seppur condannato e quindi e poi anche sospeso e esce dal Consiglio regionale, continuerà a percepire 4.100 euro come rimborso spese e l'indennità dei 7.000 euro, anche se ridotta del 15%, cioè di 1.000 euro. Il reato, pensate, per questo condannato risale al 2009, quando Amati era consigliere comunale a Fasano e secondo l'accusa avrebbe procurato ingiusti vantaggi patrimoniali ai suoi familiari. Amati potrà comunque gareggiare per altre regioni. Se dovesse essere rieletto, comunque avrà la possibilità di mettere piede nell'emiciclo non prima di agosto dell'anno prossimo. Ovviamente. Allora, il comune di Roma, il sindaco Marina, le prese con un comune con le casse disastrate. Sì, lo so che ho una brutta voce oggi e ho preso freddo, non chiedo agli ascoltatori che scrivano. Ma dicevo, al di là di questo, è interessante perché hai le casse disastrate, ma c'è un trattamento accessorio riconosciuto ai 25.000 dipendenti del comune di Roma, che è lievitato dai 66 milioni del 2008 ai 343 milioni del 2013. Alemanno, ex sindaco, ma com'è possibile che il trattamento accessorio dei dipendenti di un comune che ha un buco di bilancio che fa spavento passi anche durante il suo mandato dai 66 milioni del 2008 a 345 milioni? Cioè, nonostante il buco, avete aumentato i trattamenti accessori della bellezza di 280 milioni di euro, scusatemi. Gli ispettori del tesoro, del Ministero del Tesoro, dicono che, tra l'altro, che è stato erogato in maniera anomala, ossia i premi di produttività sono stati dati e distribuiti a pioggia, progressione economica orizzontale attribuiti in maniera generalizzata a tutti, e pagamento di indennità in molti casi nemmeno previste. Un quadro, dicono gli ispettori del tesoro, di sostanziale illegalità. E siamo passati da 66 milioni di trattamenti accessori, quindi cose in più che si danno, a 345 milioni. Ma in realtà dietro queste cifre si nascondono migliaia di micro aumenti dai 100 ai 250 euro al mese, utili a incrementare i salari. Però ci sono anche casi eclatanti. Gli avvocati del Comune di Roma arrivano a guadagnare fino a 300.000 euro l'anno, mi sembra un po' tanto per fare l'avvocato del Comune di Roma. E praticamente, sostengono gli ispettori, è stato il modo in cui i vari sindaci hanno di fatto aumentato lo stipendio dipendenti senza passare per un rinnovo del contratto nazionale, del contratto comunale. C'è il contratto decentrato del 2005 che riconosce un'indennità di disagio da alcune categorie. A chi per esempio lavora il sabato e svolge attività di sportello pubblico, agli operatori del decoro urbano, agli ispettori annonari, poi c'è quelle dirigenti dove sostanzialmente vige il principio onnicomprensivo della retribuzione, no? Teoricamente, perché nel contratto collettivo la retribuzione dovrebbe retribuire tutte le funzioni e i compiti di un dirigente, non al Campidoglio però. Perché i 235 dirigenti che già prendono in media 130.000 euro l'anno sono spesso destinatari di incarichi aggiuntivi che fanno lievitare la busta paga. Alcuni esempi: la copertura di interim di posizione dirigenziale vacante, più 25% in busta paga, oppure incarico nella commissione d'esame o di gara, anche lì aumento in busta paga nonostante la legge nazionale imponga la gratuità. Dicevo degli avvocati, allora sono in tutto 25, che già mi sembrano tanti al Comune di Roma, 25 avvocati, vabbè, però io non sono un esperto, diciamo, di studi legali. Gli stipendi vanno dai 150.000 euro dei più giovani, ora conoscendo gli stipendi degli avvocati giovani, questi sì mi sembrano tanti, a punte di 300.000. Perché? Perché sono particolarmente bravi? Forse, ma sicuramente perché c'è una possibilità accordata dal contratto collettivo nazionale di aumentare lo stipendio in base alle cause vinte, e questo l'hanno applicato. Non contenti, hanno anche modificato a Campidoglio il regolamento, gonfiando il beneficio, per cui per aumentare lo stipendio basta che le decisioni e gli esiti sostanzialmente favorevoli per il comune siano contenute anche in procedimenti non giurisdizionali e quindi guadagnano pure se la causa non c'è. Mo mi sono rotto. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, mi scrive un ascoltatore: anche oggi lei ha fatto il suo patetico show, complimenti. E anche oggi lei mi ha ascoltato, grazie. Andiamo invece a quello che è successo in borsa. Piano di rottura, quello presentato ieri da Marchionne a Detroit sull'obiettivo 2018, quindi 2014-2018 per la Fiat, Chrysler e la Jeep. In realtà di rottura qua si è vista solo quella delle soglie di borsa. Il titolo è crollato dell'11,70% a 7,48 euro. Ricordo, il piano prevede di portare le vendite del marchio Fiat dagli attuali 1,5 milioni a 1,9 milioni nel 2018, di raddoppiare, o meglio portare da 350.000 a 800.000 le vendite, sempre nel 2018, della Chrysler, di portare sempre entro 2018 le vendite della Jeep da 730.000 a 1,9 milioni, più 160%, e di portare l'Alfa Romeo anche in questo caso a quintuplicare le vendite. Ieri dicemmo ad Andrea Malan, ma non è che il libro, perché Marchionne ha detto cominciamo un nuovo libro, non sia un libro dei sogni, la borsa questa direzione ha preso, ma non è che la borsa abbia sempre ragione. Andrea Malan in collegamento con noi da Detroit, buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Allora Andrea, sorpreso anche tu per la reazione di borsa? Ma diciamo per le dimensioni sicuramente, anche se... Anche perché ieri, scusami se ti interrompo, con un piano che era già uscito, che era già stato annunciato, la borsa in Fiat aveva perso l'1,4 da memoria, 1,7 forse, non di più, prego. Beh, ieri a borsa aperta però non era ancora uscita la parte finanziaria. La parte finanziaria, hai ragione, solo la parte industriale. Cioè in particolare i risultati trimestrali del primo trimestre 2014, che sono stati piuttosto deludenti, con un utile di gestione leggermente in calo e inferiore all'attese, e non era uscito invece il contenuto finanziario del piano quinquennale, quindi con l'obiettivo 132 miliardi di fatturato, 9 miliardi di utile operativo, 5 miliardi di utile netto con obiettivo 2018, ma è quello che ha dato fastidio di più al mercato, un debito industriale che rimarrà molto elevato, cioè a 10 miliardi di euro fino al 2016, fino a fine 2016, e dovrebbe ridursi solo dopo quella data grazie alla generazione di cassa. Marchionne ieri ha nuovamente escluso un aumento di capitale, anche se ha lasciato la porta nella conferenza stampa finale al famoso prestito convertendo di cui si era parlato nei mesi scorsi, dicendo che è un'ipotesi che verrà valutata nei prossimi consigli di amministrazione. Molti osservatori, tra quelli che sono qua presenti per la conferenza a Detroit, sono convinti che comunque entro quest'anno è probabile che Fiat si rassegni in qualche modo a rafforzare il capitale, specialmente se il mercato dovesse continuare a prenderlo in questo modo. Sì, fammi capire per una cosa Andrea, hai ragione, è vero, ieri erano uscite le agenzie sulla parte industriale, i numeri che ricordavo io sui volumi, dell'obiettivo nelle vendite, non la parte finanziaria, e infatti oltre ai 55 miliardi di investimenti 2014-2018 e 7 milioni di vendite, poi ci sono tutte delle cifre, non so, i 5 miliardi di utile che deve fare il gruppo Fiat Chrysler nel 2018, i ricavi a 132 miliardi, secondo te, allora sentiamo anche un passaggio di Marchionne dopo, quando ha ricordato che non licenzierà nessuno in Italia, però secondo te cos'è la l'11,70% è tanta roba in borsa di calo. Io capisco la delusione per il primo trimestre dell'anno, ma non è che ci sia un po' di sfiducia, lo chiedo perché Marchionne i piani sull'Italia li ha cambiati più volte, i modelli dice che arrivano, abbiamo visto che arriveranno, però insomma ancora siamo un po' in ritardo, questo lo possiamo dire, l'abbiamo detto tante volte, è arrivata tardi. Siamo in forte ritardo. Nel momento in cui il mercato si riprende, Marchionne prima diceva i modelli non li faccio perché il mercato continua a perdere, va bene, adesso il mercato è ripartito e i modelli ancora non li hai fatti. Allora che cos'è che non ha convinto? Beh, innanzitutto ricordo due cose. Un'altra cosa che non abbiamo parlato prima è che il titolo nella prima parte dell'anno ha fatto più 40%. Quindi a fronte di un dubbio del mercato, di un certo scetticismo sul piano, è chiaro che il numero di persone che erano tra virgolette lunghe sul titolo era relativamente elevato, molti si aspettavano sorprese positive, invece avendo una sorpresa diciamo non entusiasmante hanno preferito vendere. Il discorso poi dei due anni di attesa, tu hai citato i modelli, in effetti i primi modelli nuovi di questa grossa offensiva per quanto riguarda la Alfa Romeo per esempio non arriveranno prima della fine del 2015, prima del 2016, quindi bisognerà aspettare ancora quasi due anni. Quindi con due anni di incertezza sulla strategia dei modelli e sulla situazione finanziaria, con un debito che resta alto, alcuni analisti hanno scritto stamattina, a quel punto non c'è motivo di detenere il titolo Fiat adesso, possiamo rientrare fra due anni e vedere a questo punto come andranno le cose. Vedere cammello, dici tu. Esatto. No, perché adesso qua i cammelli che ha immaginato Marchionne sono tanti, no, ma questa cosa che tu hai appena fatto notare è giustissima, ma pone anche a me un dubbio, nel senso che l'Alfa Romeo deve arrivare da, se vado a memoria però, 75.000 auto a 400.000, giusto? Una cosa, ho sbagliato? Esatto. Allora, vuol dire arrivare a quintuplicare le vendite. Ora, se deve arrivarci entro il 2018, ma tu mi dici che fino al 2016 non ci sono i modelli, io capisco che certo, tutto questo botto lo devi fare negli ultimi due anni. Esattamente. Diciamo che l'obiettivo dell'Alfa Romeo è uno di quelli che gli analisti ritengono largamente ambiziosi e ottimistici. Ricordiamo anche che è il terzo piano quadriennale in cui Marchionne promette un grande balzo delle vendite dell'Alfa Romeo. L'obiettivo nel 2006 era di arrivare a 500.000 unità nel 2010. Scusate, 300.000, mentre nel 2010 aveva promesso 500.000 unità per quest'anno. I piani non si sono materializzati, i modelli non sono arrivati per una serie di motivi, non c'erano i soldi per finanziare gli investimenti, il mercato europeo italiano è andato peggio del previsto, non stiamo a entrare nel dettaglio, però di fatto questo è il terzo piano abbastanza simile che viene presentato in termini di volumi e i primi due non sono andati a buon fine, quindi è comprensibile che almeno sul discorso Alfa Romeo gli analisti abbiano un certo scetticismo. Non so perché alcuni scrivono Marchionne la sparata grossa, non lo so, è chiaro che tu fai un piano industriale sulla base degli elementi, mica vai lì e dici la cifra che ti viene più facile, che discorsi sono, però obiettivamente è vero che l'Alfa Romeo avrà 8 nuovi modelli con 5 miliardi di investimenti fra il quarto trimestre 2015, cioè 2016 e 2018, per cui è vero che lì si concentra grosso, ripeto, per essere diciamo il più possibile prudenti, sono obiettivi veramente veramente ambiziosi su alcuni marchi, mi sembrano forse più raggiungibili su Fiat, dove si dovrebbe passare da 1,5 milioni di auto vendute a 1,9 milioni, e forse anche su Chrysler, perché sulla Jeep insomma vogliono raddoppiare le vendite, no Andrea? Beh, anche su Chrysler, diciamo che Chrysler dovrebbe raddoppiare le vendite, Chrysler è un marchio esclusivamente americano che punta a raddoppiare le vendite da qua al 2018. Il problema del mercato americano, che alcuni analisti hanno fatto osservare oggi, è che le stime di Fiat sull'andamento del mercato nel suo insieme sono abbastanza prudenti. Si ritiene che il mercato guadagnerà 1,5 milioni di vetture da qui al 2018, inteso come NAFTA, cioè Stati Uniti, Canada e Messico. Di questo 1,5 milioni di vetture in più, Fiat Chrysler punta a conquistarne 1 milione secco, salendo da poco più di 2 milioni a poco più di 3 milioni di consegne. Evidentemente l'obiettivo è molto molto ambizioso. È tutto molto ambizioso, insomma, secondo me tu hai detto la borsa, l'ho detto io a dire il vero, vuole vedere il cammello, oggi l'abbiamo visto tutti, meno 11,70%, noi speriamo, perché lo ripeto a tutti, a me non me ne frega nulla che la Fiat sia in Confindustria, non sia in Confindustria, come scrivono alcuni che pensano che siamo eterodiretti. Io tifo Fiat perché la Fiat è un grosso gruppo industriale di questo paese e tifo da sempre, tifiamo da sempre Italia. Dopodiché un conto è fare tifo, un conto è anche non vedere come gioca la squadra. Oggettivamente speriamo che stavolta Marchionne non ricambi il piano e questi numeri siano realistici. Mettiamola così, la speranza è l'ultima a morire. Vorrei chiudere questo collegamento con l'ottimismo della volontà e qui mi fermo. Grazie ad Andrea Malan. Sette e 51 minuti, adesso parliamo degli altri titoli in borsa. Ognuno, vedo molti diversi giudizi su Marchionne. Aspettiamo la prova dei fatti. L'operazione con la Chrysler è stata un'operazione di successo per gli americani, sicuramente. Su Fiat, ripeto, vedere cammello vuol dire vedere i modelli, al di là della Volkswagen, che giustamente, come mi ricordavano in regia, ha annunciato tempo fa 100 modelli nei prossimi anni. Ma vediamoli, perché continuare a dire. Però arriveranno, prima non li facevi perché il mercato calava, adesso che il mercato sta crescendo ti sei fatto trovare in ritardo. Questo va ammesso che sono un errore della Fiat di Marchionne in primis, perché non è che guadagni pochissimo. Il signor Marchionne è stato osannato anche da noi perché ha uno stile nuovo, tutto quello che volete. Adesso però alla prova dei fatti, caro Marchionne, dovevate muovervi prima con i modelli, perché per anni ci ha ripetuto che la Fiat avrebbe lanciato i modelli solo quando il mercato ripartiva. Il mercato è ripartito, non ci sono i modelli e la Fiat continua a perdere quote di mercato. E non lo dico perché o non è in Confindustria, lo dico perché ogni mese commentiamo i dati sulle immatricolazioni, se vogliamo smettere di vedere tutto quanto in maniera ideologica. Adesso ha un piano molto ambizioso, speriamo che venga raggiunto. Ripeto, andando poi a scorporare le singole voci, che sia molto ambizioso lo si capisce, Allora, Fiat meno 11,70%, e anche questo è un dato di fatto, non un'opinione. Andiamo avanti però con Finmeccanica meno 7,50%, e visto che oggi la mia voce fa schifo, almeno avrete quella di Livia Zancanero, di Ocorio sulla 24 ore. Buonasera Livia. Buonasera. Fai tutto da sola perché ormai sto perdendo le corde vocali. Finmeccanica meno 7,5, pure qua i conti, insomma, perdita netta di 12 milioni di euro contro i 6 milioni di utili dei primi tre mesi del 2013. Sì, assolutamente sì, i ricavi sono poi calati di quasi il 5%, 2,94 miliardi di euro. Inoltre vi sono anche i timori, sempre i soliti timori relativi al taglio degli ordini per gli F-35, che qualora venisse approvato, secondo gli analisti avrebbe un impatto negativo rilevante sui conti dell'azienda. Sì, tra l'altro quella l'abbiamo letta come notizia in apertura, perché congelato, è stata approvata in commissione la mozione PD di congelare la parte degli F-35. Ma andiamo avanti. Oltre a Fiat e Finmeccanica c'è tutto un gruppo di banche che perde tanto. Monte dei Paschi meno 6,34%, Banco Popolare meno 5,70%, Popolare di Milano meno 5,40%, Intesa San Paolo meno 4,20, Popolare Emilia Romagna meno 4 e chiudo con UBI Banca meno 3,70%. Sì, allora le banche, diciamo che sono andate male in tutta Europa, il settore bancario ha perso lo 0,80% circa. In Italia sono andate particolarmente male, come dicevi tu, anche se lo spread rimane stabile intorno ai 155 punti base. Vi sono alcune notizie, ad esempio relativa alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che ha perso quasi il 4%, ieri il CDA ha dato il via libera all'aumento di capitale da 750 milioni di euro, un'operazione che verrà proposta poi all'assemblea dei soci dei primi di giugno. La società ha inoltre approvato i conti del trimestre, che hanno mostrato comunque un utile netto in crescita di quasi il 100%, a oltre 28 milioni di euro, ma nonostante la crescita si tratta di un risultato sotto le attese degli analisti. Anzi abbiamo ancora 30-20 secondi, quindi il resto lo facciamo dopo il GR24. Ci spostiamo, parleremo di Mediaset, perché pure qui il calo è significativo, meno 3,80%. Bene invece oggi su un listino tutto depresso, meno 1,31% l'indice di Milano contro un più 0,40% di Parigi, più 0,60% di Francoforte e invariata Londra. Bene, dicevo, invece Tenaris più 1,70%, CNH Industrial più 1%, ma anche Enel, Telecom Italia, Eni e Snam. Set me free, set me free, set me free, set me free. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento di Borsa. Allora, Livia Zancaner, al di là del caso di Borsa, che appunto è Fiat, meno 11,70%, e anche di Finmeccanica, meno 7,5%, e poi delle banche che abbiamo già commentato, è bene andata Tenaris, più 1,70%, CNH Industrial, più 1%, e poi oltre a Telecom, più 0,90%, tutti gli energetici, Enel Green Power, più 1, Eni, più 0,70%, come Enel, e Snam, più 0,40%. Livia. Sì, allora Tenaris ci sono praticamente, allora il settore è andato bene, sottolineano gli operatori, alcuni analisti pur ribadendo l'indicazione di vendere il titolo hanno incrementato la stima sull'utile per azione per quest'anno, quindi per il 2014, grazie anche ai conti positivi che sono stati pubblicati per il primo trimestre del 2014. Per quanto riguarda il settore energetico è andato bene, in Europa ha guadagnato lo 0,53% nel dettaglio, e nel Green Power oggi ha pubblicato i conti che hanno mostrato un utile in crescita di quasi il 15%, domani toccherà a Enel diffondere i conti, l'approvazione da parte del CDA invece è all'ordine del giorno per oggi, e le attese sono per un utile netto in calo del 6-10%, intorno a 760-800 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. Ancora sui titoli, faccio notare che c'è anche Mediaset oggi che perdeva il 2, poi è arrivata a chiudere con un meno 3,80%. Come mai perde Mediaset all'indomani dell'ufficializzazione, diciamo, dell'interesse, dell'offerta di Telefonica per Digital Plus, di cui la famiglia Berlusconi, anzi Mediaset, ha il 22%? Sì, allora ricordiamo che Mediaset aveva annunciato di voler integrare le attività della Pay TV d'Italia e Spagna, unendo quindi un unico veicolo premium e la quota in Digital Plus, che appunto, come dicevi tu, è pari al 22%. Quindi con l'accordo, con il comunicato, con l'annuncio di Telefonica, che ha perso il 3%, ma la borsa di Madrid, il gruppo spagnolo salirebbe al 78% circa. Quindi le mosse del mercato sono puntate gli occhi del mercato sono puntati sulle mosse che compirà Mediaset nelle prossime settimane. Dando un'occhiata alla borsa, anche Prisa ha guadagnato terreno e ha segnato un rialzo del 4,5%. Andiamo sui migliori e peggiori in assoluto. Allora, il peggior titolo è Fiat oggi, poi AF meno 9,70, Cementir Holding meno 9,30, Finmeccanica abbiamo detto, poi c'è il Creto Bergamasco che perde il 6,60%, del Monte dei Paschi invece abbiamo già detto, Cell Therapeutics meno 6,30, Roma Calcio meno 6,20%. Chi bene è andato invece? Crédit Agricole più 7,20, Meridie più 4,60, Movimax più 17%, Philips più 2,76%. Va detto però, Livia, che oggi in rialzo per buona parte della seduta erano state anche le Pirelli, poi hanno ceduto sul finale. Le Pirelli erano andate bene per quasi tutta la seduta, l'attesa per i conti del trimestre che dovrebbero essere pubblicati a breve, le stime riguardano ricavi stabili intorno a 1,5 miliardi di euro e un utile in lieve rialzo a quota 86 milioni rispetto ai 73 dei primi tre mesi del 2013, debito stimato in crescita verso 1,9 miliardi di euro. E poi ancora segnalo anche le generali più 0,30%, di Snam vi ho detto più 0,40%, invece tra chi è ceduto, visto che me lo chiedete, vi do anche giustamente il valore di Exor, che è la holding di controllo della famiglia Agnelli, del controllo del gruppo Fiat, meno 2%, come Atlantia che perde il 2%, non ho citato UniCredit, avete ragione, perché perdeva meno di altri bancari, comunque ha ceduto l'1,70%, mentre World Duty Free e Mediolanum hanno perso l'1,5%, Uniposai l'1,20%, Luxottica l'1,1% come Autogrill, infine Estima Electronics e Terna hanno perso lo 0,90%. Euro sempre forte a quota 1,3920, l'America, ed è l'ultima risposta che do a chi sta scrivendo sulla borsa, chiaramente al 349-238-6666, dicevo, l'America in questo momento è positiva sul Dow Jones di uno 0,66%. Grazie a Livia Zancaner, Radio Core, il Sole 24 Ore. alcuni di voi vogliono sapere se abbiamo già parlato dell'ok del Senato al Dia del Lavoro. Sì, l'abbiamo fatto praticamente in diretta. Adesso ho le informazioni sul traffico, però poi ci spostiamo anche oggi a Rimini, perché seconda giornata di lavori del convegno dell'Assemblea Annuale della CGIL, congresso per essere precisi, 17° congresso della CGIL. Interessante oggi perché dopo l'attacco frontale di ieri a Camusso a Renzi, la risposta di Renzi in serata, oggi era la volta in mattinata del ministro del lavoro Poletti, ex presidente della Lega delle Cooperative, quindi particolarmente interessante la sua posizione, e poi nel pomeriggio dell'opposizione interna alla CGIL che si chiama FIOM e quindi il suo segretario generale Maurizio Landini. In diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Dicevamo della seconda giornata del congresso della CGIL. Questa mattina il ministro Poletti, che è arrivato per ascoltare, però ha rilasciato anche delle dichiarazioni. Ha detto: noi non facciamo niente, riferito ai sindacati, contro nessuno, serve però un radicale cambiamento del paese. Per quello che riguarda il governo, la musica è già cambiata, il governo ascolta e decide, è un atto fisiologico in democrazia. Sentiamo un passaggio. Il governo ha scelto di decidere, da questo punto di vista è legittimo che si critichi, ma è altrettanto legittimo che questo governo si assuma in maniera esplicita, puntuale e diretta questa responsabilità. Noi l'abbiamo fatto, non abbiamo chiesto il permesso, virgolette, a nessuno, perché credo che sia un dato normale, naturale, fisiologico della democrazia. L'ascolto, la discussione, la decisione. Noi diciamo che la musica è già cambiata perché pratichiamo le cose con una modalità che è diversa da quella che storicamente è nota in questo paese. E partiamo proprio da Poletti, siamo in collegamento con l'inviato del Sole 24 Ore, Giorgio Pogliotti a Rimini. Buonasera Giorgio. Sì, buonasera. Dico, Poletti è interessante perché insomma lui da uomo di sinistra, però è sinistra, emiliana, romagnola, la Lega delle Cooperative, potentissimo diciamo gruppo industriale di questo paese. Beh, insomma, è interessante sentire quello che poi lui dice al congresso della CGIL, anche se ho ben capito lui non era invitato a parlare sul palco, ma solo a essere presente in sala. Giorgio. Sì, diciamo, Poletti ha confermato la linea del governo. Questo è un governo che vuole, diciamo, agire in discontinuità rispetto ai precedenti esecutivi. Un segnale tangibile di discontinuità è stata la scelta del Presidente del Consiglio, primo Presidente del Consiglio di un governo centrosinistra, a non partecipare appunto ai lavori congressuali della CGIL per dare un segno tangibile di distanza. Poi la polemica appunto di ieri sera che avete letto tutti quanti oggi sui giornali. Oggi Poletti ha confermato quello che è poi, diciamo, il DNA di questo governo, cioè noi parliamo, ascoltiamo tutti, ma decidiamo perché vogliamo rispondere a un'istanza di cambiamento radicale che c'è nel paese. E quindi sostanzialmente nulla di nuovo, la conferma di una linea che questo esecutivo, insomma, le aspettative che ha creato nel paese intende perseguire, ecco. E per quello che riguarda poi l'accoglienza di Poletti al convegno, al congresso della CGIL? Ma guarda, è stata un'accoglienza, ci sono stati applausi, c'è stato qualche fischio, ma insomma è evidente che non si può più parlare di governo amico, cioè certo. si tratta di due entità distinte, e quindi sostanzialmente se qualcuno pensava di giocare in casa sbagliava i conti, nel senso che appunto c'è stato un atteggiamento, se vogliamo, da parte della platea dei delegati, così di accoglienza, di applausi che si riservano sempre agli ospiti, ma qualcuno insomma non ha fatto ha rimarcato la propria dissenso con qualche fischio. Allora, questo era il fronte, diciamo, governo, dove mi sembra che le posizioni a questo punto siano distanti. Devo dire, alcuni ascoltatori scrivono che la CGIL ha fatto un regalo a Renzi, non lo so, la CGIL fa quello che vuole e il suo segretario Susanna Camusso è stata molto netta. Forse, se capisco i messaggi, ha chiarito a tutti che Renzi non ha nessuna, diciamo, reverenza nei confronti della CGIL, quindi gli ha fatto un favore forse elettorale. In questo senso cerco di interpretare i messaggi in chi pensa che Renzi, appunto, distanziandosi dalla CGIL, dalla Concertazione a tutti i costi, vada a pescare l'elettorato che non è un po' più parte, quelli non rappresentati dai sindacati, ma che non è un po' più della Concertazione intesa come elemento paralizzante, e quindi non solo di sinistra ma anche di centro, forse di centrodestra, ma queste sono dinamiche politiche. Invece è intervenuto nel pomeriggio Maurizio Landini, il segretario generale della FIOM. Interessante anche perché Landini è l'opposizione interna dentro la CGIL alla Camusso. Sentiamo questo passaggio. Con la situazione che c'è, noi non è che possiamo fare un congresso che di questi temi non ha voluto discutere, perché così facciamo una conferenza d'organizzazione nel 2015, perché questi tempi non ci sono più dati. Non so se io vivo da un'altra parte, ma quello che io percepisco nelle fabbriche, nella situazione, nelle difficoltà che ci sono, è che noi non abbiamo quel tempo lì davanti. Non dobbiamo ragionare a quello che succede a noi, dobbiamo capovolgere il ragionamento. La gente che oggi è nelle fabbriche, che è precaria e che è pronta a battersi, lo fanno perché c'è in gioco la loro vita. E io la domanda che mi faccio, e scusatemi la brutalità, è se ognuno di noi è pronto a mettere in gioco, come fanno loro, la nostra vita assieme a loro per provare a cambiare questa situazione. Questo è il punto che abbiamo. E se la CGIL torna a quel punto lì, a queste origini, allora può avere una proposta, altrimenti non discutiamo dopo di trovarci una situazione. E lì considero che c'è un elemento di difficoltà, e proprio perché sento, per quello che mi riguarda, una responsabilità. Sono stato rieletto segretario della FIOM per la seconda volta. E ho davanti a me il fatto che se sto alle regole, tra qualche anno io il segretario della FIOM non lo faccio più. E il problema che mi sono posto e che sento su di me questa responsabilità, io penso che ognuno di noi si sente delle responsabilità addosso in qualsiasi livello, non è quello che succede a me, che non me ne frega nulla. Ma il problema che ho è cosa lascio io quando andrò via da qui a quelli che vengono dopo di me, visto che io ho imparato in fabbrica che se avevo dei diritti che adesso sta mettendo in discussione è perché quelli prima di me che c'erano si erano battuti per ottenerlo. E allora è qui il punto: la nostra forza non sono i sindacalisti, la FIOM non avrebbe retto questi 4 anni con tutto quello che hanno provato a fargli alla Fiat solo perché c'erano dei sindacalisti e qualcuno andava in televisione. Allora, molto accalorato Giorgio Pogliotti l'intervento di Maurizio Landini, però dobbiamo far capire a tutti, perché in realtà non era solo una critica, diciamo, alla situazione esterna, era una critica interna alla CGIL guidata da Susanna Camusso, se posso andare avanti. Prego. Diciamo, il dato di oggi è la fine, diciamo, dell'alleanza interna nella maggioranza che c'era intorno alla Camusso, nel senso che appunto Landini aveva scelto di presentarsi al congresso della CGIL senza un documento alternativo, e quindi, diciamo, c'era di fatto un documento unico della Camusso dove dentro c'era anche la FIOM, e poi c'era un documento alternativo della minoranza di Cremaschi che aveva raccolto il 2,4% nelle assemblee congressuali. Oggi formalmente Landini ha detto che questa unità è finita. Ora, capiamoci, tutto ciò non compromette la maggioranza di Camusso, che resta solida, diciamo, allargamente, diciamo, la maggioranza dell'organizzazione, però dato di fatto che con Landini, quindi con la FIOM e con una parte minoritaria di lavoro e società, si coagula, diciamo, una nuova minoranza all'interno della CGIL, e che su certi temi cercherà di farsi sentire, appunto. Ma su questo, scusami, a guardare da fuori, io non sono un particolare esperto di CGIL, di temi sindacali, però a guardare da fuori la CGIL non ha più, diciamo, come una vicinanza con un governo di centrosinistra, perché tranquillamente lo si può dire, Renzi, della, diciamo, freddezza nei confronti anche dei sindacati, fa una sua battaglia, una sua cifra politica. Dentro non ha più non è più in sintonia con una parte importante come la FIOM, ma non è che da tutto questo congresso poi la Camusso ne esca alla fine indebolita? Ho capito che la maggioranza interna, questo non è in discussione, però Mi interessava, sì, il fronte, diciamo che fuori cosa e dentro. È interessante oggi, poi voi avete dato un piccolo estratto l'intervento di Landini, ma Landini più volte ha richiamato Renzi. Cioè Landini un po' vuole, diciamo, prendere il testimone e come dire, accreditarsi come il rottamatore, diciamo, la CGIL, come colui che insomma chiede un profondo rinnovamento. Ora, al di là poi del fatto che sul piano contenutistico ci sono, diciamo, enormi distanze tra le posizioni della sinistra radicale di Landini e quelle del Presidente del Consiglio, però i segnali che lui vuole dare sono quelli proprio appunto di qui serve un profondo cambiamento del sindacato e cerca appunto di un po' di accreditarsi come un portatore di grosse istanze di cambiamento. Il tema grosso che è quello poi di sindacato che deve rappresentare nuove istanze dei giovani, dei precari che non sono rappresentati insomma in questi sindacati, e quindi diciamo questo è un po' la battaglia che si gioca sullo sfondo. È indubbio che come dire, attaccati, diciamo, avendo un governo che non li convoca e che più di tanto non li ascolta, la CGIL, e avendo anche un'opposizione interna, appunto in Landini, la Camusso deve cercare unità di intenti e d'azione con Bonanni e Angeletti. Infatti le più grandi lodi e supporto alla Camusso sono arrivate da fuori, da Will e Cis, no? Certo, ieri c'era una comunanza, diciamo, di interessi tra Camusso, Bonanni e Angeletti, poi non solo sui metodi, no? Il fatto della concertazione che è finita, che non sta bene, ma anche sui contenuti, le critiche al decreto lavoro, le critiche alla volontà del governo di fare un nuovo taglio nei distacchi sindacali, le comuni critiche alla volontà del governo di abolire la Covip, cioè tutta una serie di contenuti su cui CGIL e CISL UIL hanno ritrovato l'unità e hanno capito che devono per forza marciare uniti perché avranno vita più difficile con questo governo. Per non parlare poi del tema delle pensioni. Sì, no, ma infatti mi veniva anche la battuta, la paura fa 90, insomma, paura no, però è vero che sicuramente non hanno un governo, tra virgolette, amico o comunque che gli fa da sponda. Detto questo, forse anche, oltre che la CGIL, la UIL e la CIS, potrebbero anche ripensare un po' al loro ruolo, a come l'hanno esercitato, se è vero che poi difendono solo i diritti di chi ha già assunto, di chi è già in pensione, ha già lavorato, mentre sono scomparse nella rappresentanza dei diritti di altri lavoratori che si sentono completamente tagliati fuori, e delle volte sul pubblico impiego, devo dire, soprattutto Will e CIS hanno fatto melina, cioè la resistenza grossa per arrivare a un pubblico impiego in cui tu sia realmente movibile e non più inamovibile, realmente licenziabile e non più licenziabile, di fatto con dirigenti non pagati più due o tre volte più della media europea, ecco, su questi sindacati una mano sulla coscienza dovrebbero mettersela. Grazie comunque, Giorgio Pogliotti in collegamento con noi da Rimini. E ci avviamo alla conclusione, vi do un'ultima notizia che riguarda quanto ha bruciato oggi in borsa, ossia quanto è scesa la capitalizzazione di Fiat in borsa con il tonfo e la sberla che ha preso, meno 11,70%, 1 miliardo e 240 milioni di euro oggi ha perso la, sono andati in fumo come capitalizzazione, 11,69% del calo di Fiat a 7,48 euro. Da Sebastiano Berisoni è veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, Focus Economia torna domani dalle 17 in poi, intanto l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.